in primo piano. Venerdì 24 giugno, vediamo le aperture per il Sole 24 Ore. Borse giù, cedono le banche. Il Corriere della Sera: Alfano si scontra con i PM, l'inchiesta P4, intercettazioni non rilevanti. Per Repubblica: scontro sulla legge Bavaglio, sempre intercettazioni. Anche La Stampa: Alfano sulla P4, intercettazioni inutili e costose. Il Fatto Quotidiano: Papa e i Rolex rubati, che fate? Lo arrestate? Chiede il Fatto Quotidiano. Per Libero: spiate da 1 miliardo, è il costo delle intercettazioni. Il Messaggero: intercettazioni, Alfano accusa. Vedete, questi sono un po' i titoli, soprattutto sul tema inchiesta P4, mentre L'Unità: povera Italia, dimezzata la crescita, esplode la rabbia sociale e la resa dei conti. Per Il Giornale: allarmisti di professione, sotto tiro 16 banche italiane. L'accusa è nei confronti di Moody's. Tra l'altro vi annuncio alle 8:20 nell'intervista avremo il procuratore capo di Napoli, Giovan Domenico Lepore. La procura di Napoli attaccata frontalmente ieri dal ministro alla giustizia Alfano. Allora, le segnalazioni da cui voglio partire. Se vedete aggirarsi nei pressi del Vaticano, leggo dal Messaggero, Monsignor Gianni Sonda, sappiate che è stato bandito dal Vaticano stesso. Vaticano, ingresso vietato al Monsignore dei Raggiri. È una vicenda che non ha precedenti, scrive il Messaggero a pagina 19 con Franca Giansoldati per la Città del Vaticano. Con tanto di fotosegnaletica distribuita, vietato entrare in Vaticano. Nome, cognome, ben evidenti, Monsignor Gianni Solda interdetto da ogni accesso in area extraterritoriale. Mai in passato una decisione del genere era stata adottata dalle autorità superiori del governatorato. Come si legge nel warning distribuito alcuni giorni fa ai gendarmi che controllano i varchi di Porta Sant'Anna, del Petriano, del Perugino. Una singolare misura restrittiva per questo monsignore che ha collaborato per tanti anni con il cardinal Giovanni Battista Re, presa dopo una serie di segnalazioni da parte di cardinali, vescovi, ma anche suore. Che cosa faceva questo monsignore? Chiedeva loro denaro. Denaro che, salvo rarissimi casi, non restituiva. Soldi che diceva servivano per far fronte a una serie di spese impreviste, in genere massimo 5.000, 10.000 euro, ovviamente i malcapitati, fidandosi totalmente, ciecamente di lui, gli davano dei soldi. Ebbene, ora questo monsignore vive recluso in un modestissimo appartamento a Borgo Pio con le persiane chiuse, fa sapere il Messaggero, ed è stato bandito dal Vaticano. Mentre la seconda segnalazione è un tema che è stato lanciato da Umberto Veronesi e che oggi scatena il dibattito sui giornali. Umberto Veronesi rispondeva un po' al sindaco di Bologna, il tema che abbiamo trattato noi ieri, no? Il sindaco di Bologna Merola, che ha detto bisognerebbe premiare di più le coppie sposate perché si assumono una responsabilità maggiore rispetto a coloro che vivono in stato di unione di fatto. Ebbene, Veronesi, l'amore omosessuale è più puro. Veronesi scatena il dibattito, ci sono paginate ovunque, sulla Stampa, sul Giornale, amore etero gay, che gara assurda, su Libero, caro professor Veronesi, l'amore gay non è più puro. Ma insomma, quello che ha detto il professor Veronesi, l'amore omosessuale è l'amore più puro, perché quello etero è strumentale alla procreazione, ti amo perché in te ho trovato la persona con cui fare un figlio. Invece l'amore omosessuale no. Un omosessuale dice amo te perché mi sei più vicino. Hai un cervello più vicino al mio, il tuo pensiero, la tua sensibilità, i tuoi sentimenti sono più vicini ai miei. E allora si è scatenato il dibattito. Secondo il vescovo Negri, intervistato dalla Stampa, svalutare l'amore tra uomo e donna per esaltare l'amore omosessuale è un'operazione incomprensibile. Per il filosofo Gianni Vattimo, invece, lo definirei così, un po' a ragione, anche se mi stupisce da Veronesi. Parlerei di puro piacere della bellezza. Insomma, l'amore omo è più puro. Il sottosegretario Giovanardi dice è un delirio estivo di Veronesi. Sta di fatto che il dibattito è animato sui giornali. In primo piano. Alle 7:35 minuti, eccoci. Allora, le intercettazioni ancora tengono banco con la polemica su queste intercettazioni, perché Il ministro Alfano, il ministro della giustizia, ha detto: intercettazioni non c'è rilevanza penale, intercettazioni che leggiamo sono anche divertenti, ma non hanno niente di penalmente rilevante e non sono gratis per il sistema. Ha attaccato, insomma, la procura di Napoli. Ripeto, il procuratore Giovan Domenico Lepore, il procuratore capo di Napoli, sarà il nostro ospite alle 8:20 per l'intervista. E tra l'altro si vocifera dunque di interventi legislativi. Tutto dovrà decidere, scrive il Corriere, Silvio Berlusconi quando ritornerà da Bruxelles, dove si trova per il Consiglio europeo in questi giorni. Secondo Repubblica, Liana Milella, pagina 7, vengono anticipati quello che è la strategia legislativa da parte del governo. Che cosa prevede, secondo Repubblica, il governo? Si prepara un nuovo blitz, è pronta la nuova legge bavaglio di Berlusconi sulle intercettazioni. Sarà un solo articolo e con un colpo di teatro sarà preso di peso dalla legge Mastella votata in modo bipartisan nel 2007. In questo articolo si impedirà ai giornali di pubblicare anche per riassunto o nel contenuto le telefonate fino al processo. Blackout dunque, scrive Repubblica sull'inchiesta P4, multe da 10.000 a 100.000 euro per chi infrange le regole, risparmiati gli editori, per loro niente supermulte. Questa manovra è destinata a mettere in imbarazzo il centro-sinistra, perché, scrive Repubblica, proprio perché è praticamente presa di pari, è copiata passo dopo passo questa norma che verrà presentata da quella che aveva già scritto l'ex ministro Clemente Mastella nel governo Prodi 2006 sull'onda del suo scandalo Calciopoli. E Berlusconi dice: voglio proprio vedere come il centro-sinistra boccerà una legge che aveva proposto e votato appena 4 anni fa. Quindi questo sarebbe allo studio per bloccare queste intercettazioni. Repubblica col suo direttore Ezio Mauro fa partire in prima pagina una nuova campagna, quella dei post-it: voglio essere informato, no alla legge bavaglio. Mentre Giuliano Ferrara sul Foglio, come visione opposta, fa un fondo in prima pagina dal titolo Lo sterco telefonico. Scrive Ferrara: dai magistrati non mi aspetto più niente. Il loro partito combattente inonda le cancellerie delle procure, le camere da anni di faldoni chilometrici, botte di decine di migliaia di pagine. Sono invece stordito dalla sordità di Ferruccio De Bortoli, di Ezio Mauro, di Mario Calabresi, degli altri direttori di giornale che non appartengono alla stirpe teppistica dei tabloid che vivono di infamia. E sono stupefatto dalla facilità etica e culturale con cui gli editori, la Fiat, gli evoluti del Corriere, un cattolico bresciano come Giovanni Bazzoli, Mediobanca, le Generali, Montezemolo, Della Valle, permettono che si compia questo scempio. Pubblicare un testo in cui un ministro è definito brutta mignotta o un qualunque altro brano di conversazione privata capace di lordare chiunque, roba che non ha rilevanza all'infuori della generica caccia all'uomo e alla sua sfera privata, non è un atto di buona informazione, non è un atto di giustizia e riparazione morale di torti, non è un gesto di coraggio, non è espressione di radicalismo neopuritano, è solo una mascalzonata. E poi Ferrara, in conclusione di questo suo articolo, si rivolge anche alla stampa estera, quella gente pigra che sono i giornalisti della stampa estera in Italia, non si accorgono dell'enormità di un fenomeno in cui non si vede alcun paragone nelle democrazie moderne in Occidente. Caro John Micklethwaite, lei è un uomo di mondo, un giornalista brillante e intelligente, ma è mai possibile che un giornale liberal conservatore come il suo Economist non eserciti le sue doti di penetrazione e ironia sullo stato di polizia origliante che c'è in Italia? Insomma, il tema e il dibattito è lanciato. Quello sulle intercettazioni che tornano prepotentemente alla ribalta. Anche oggi c'è un'infornata di intercettazioni praticamente tutte uguali sui giornali. Ci si concentra sul ruolo e sui colloqui tra il ministro degli esteri Frattini e Luigi Bisignani. Ci manderanno nel baratro Frattini e lo sfogo con Bisignani. Si parla di timori del governo tecnico, di compravendita degli eletti. La frase che è cerchiata in rosso un po' su tutti i giornali, che fa più discutere, e questo Frattini dice a Bisignani al telefono: al Senato, se si prendono e si comprano 4, 5, 6 senatori proponendogli posti di sottosegretario e ministro, questi si spostano, piuttosto che andare a casa fanno il ministro. E poi dice Frattini: per salvare la loro pelle ci mandano tutti nel baratro. Frattini spiegò a Bisignani: qui si comprano i senatori, titola così il Messaggero. E beh, insomma, questa è una frase sicuramente che farà discutere all'interno di queste intercettazioni, mentre secondo la stampa il vero incubo del Premier sarebbero telefonate sul Bunga Bunga. Scrive a pagina 3 Amedeo La Mattina il retroscena da Bruxelles al seguito del Premier Berlusconi: sarebbe il finimondo se saltasse fuori un'intercettazione telefonica in cui ministri o ministre dicono che il capo pensa solo al Bunga Bunga, che non è più in grado di governare, che l'esecutivo è allo sbando, che lo definiscano un malato. Una parola pronunciata al telefono con Luigi Bisignani che potrebbe marchiare a fuoco chi l'avrebbe pronunciato. E insomma, diciamo che questo è l'incubo secondo la stampa. Mentre su questa vicenda c'è il giudizio anche di Licio Gelli, a dire il capo della P2, che dice: la P2 era una cosa molto seria, questa P4, se c'è, è un comitato carnevalesco. Mentre il Fatto Quotidiano si concentra su che cosa? Su Alfonso Papa. Alcune foto l'hanno ripreso. Alfonso Papa, ex magistrato di Napoli, ora parlamentare, implicato in questa inchiesta. Alcune foto, viene messo in prima pagina: Papa e i Rolex rubati, questa vicenda, mentre viene seguito. Ci sono le foto che Libero pubblica anche in prima pagina, o meglio no, a pagina 3, le foto di Alfonso Papa seguito dai magistrati. Ebbene, che cosa fa Alfonso Papa? Incontra tra gli altri tale Gennaro Giuliano, leggo dal Fatto Quotidiano a pagina 3, classe 1950, arrestato per porto abusivo d'armi, segnalato per ricettazione di che cosa? Di Rolex. Alfonso Papa, una grande passione per gli orologi di russo, e secondo questa inchiesta contattava spesso tale Gennaro Giuliano, appunto, che era in grado di vendergli Rolex sotto costo. La procura dice erano Rolex rubati, tanto che il Fatto Quotidiano mette in prima pagina: Papa e i Rolex rubati, che fate, lo arrestate? L'appello è ovviamente al Parlamento. Vabbè, la politica si anima anche per le interviste che oggi trovate un po' ovunque, una sul Corriere, una sul Fatto Quotidiano, una sulla stampa, ad Antonio Di Pietro. Antonio Di Pietro è l'uomo del giorno, d'altronde quella foto rubata in Parlamento di Berlusconi che gli si avvicina, si siede allo scranno del Parlamento a fianco a lui e parlano, colloquiano per qualche minuto, ha fatto scatenare anche le ire di qualcuno dell'Italia dei Valori. Di Pietro si difende in tutte queste interviste a dire: che dovevo fare? Dovevo menargli? Cioè, Berlusconi è arrivato a fianco a me, il Presidente del Consiglio si siede, che dovevo fare? Dovevo menargli? Al Fatto Quotidiano addirittura dice: dovevo sodomizzarlo? Dovevo dargli un pugno? Dovevo mettergli due dita negli occhi? Berlusconi è venuto lì, mi ha parlato e io l'ho ascoltato. Ovviamente ci diamo del lei, rigorosamente. E ad Aldo Cazzullo, per esempio, dice: che dovevo fare? Morderlo? Strappargli i capelli finti? Il presidente si avvicina e tu come reagisci? L'ascolti, tieni la tua posizione. Se verrà anche trovarmi a Montenero, gli ho detto, le mostrerò una cosa che custodisco dai primi anni 60, il portafoglio di mio padre, con scritto Di Pietro Giuseppe Contadino, morto a 72 anni cadendo dal trattore. Nel suo portafoglio non c'era mai una lira, ma un'immagine della Madonna di Bisaccia. E vabbè, un Di Pietro che comunque è un Di Pietro nuovo, e dice: Berlusconi è una persona sostanzialmente sola, mi ispira umana pietas, e ho rabbia invece per i cortigiani che di lui si approfittano, che ci mangiano, che umiliano le istituzioni coprendosi dietro la sua faccia. E poi definisce Berlusconi Don Asimiento. Chi? Il mago Don Asimiento. Ma ormai gli italiani hanno scoperto la truffa e non gli chiedono più. Di Pietro, insomma, che si difende neanche per il PD, che definisce nell'intervista alla stampa un pachiderma. Tra l'altro Iena sulla stampa è graffiante come al solito e dice: Di Pietro, che dovevo fare? Dovevo menargli? Sì. In primo piano. E in politica però c'è un altro partito dove sta succedendo, ed è sotto traccia, ma sempre più emerge in realtà questa tensione, un regolamento di conti secondo qualche giornale, è la Lega. Bufera Lega, titolo oggi in prima pagina il Quotidiano Nazionale, il Giorno, edizione del Nord, perché c'è questa frase di Bossi uscito dal Parlamento dicendo: Maroni, un cronista gli dice, Maroni non è contento della riconferma di Marco Reguzzoni come capogruppo di Montecitorio. La risposta di Bossi: peggio per lui. Ci sono due anime che si confrontano: i bossiani e il cosiddetto cerchio magico, cioè quei parlamentari che sono vicini a Umberto Bossi. Una di queste è Rosi Mauro, senatrice, che addirittura fa sapere i giornali da qualche mese si è trasferita a Gemonio, cioè ha lasciato Milano e ha preso un attico a Gemonio, cioè il paese di Umberto Bossi, proprio per stare ancora più vicino, anche nei weekend vicina a Umberto Bossi. Dall'altra parte ci sono i maroniani. Secondo il giornale, Bossi attacca Maroni, Lega alla resa dei conti. Maroni avrebbe replicato così tra i collaboratori alla frase "è scontento, peggio per lui" detta da Bossi: gli hanno fatto lo shampoo disinformandolo, ma le bugie hanno le gambe corte. Insomma, pare che all'interno della Lega ci sia questa resa dei conti. Tra l'altro, devo segnalarlo, l'Unità ci fa una pagina, pagina 17, che ti ha combinato un leghista, il senatore Polledri, che era ospite ieri in una trasmissione televisiva, Agorà, su Rai 3 con Vianello, e si parlava con l'onorevole Pina Picerno del PD, che ha detto: la Lega lancia segnali di celodurismo, ma poi arriva a Roma e si cala le braghe. E al che Polledri ha replicato: se ci caliamo le braghe noi, può esserci una bella sorpresa per te. Insomma, Pina Picerno, tra l'altro, è un onorevole, una bella donna, avvenente. Insomma, questa frase ha scatenato le polemiche. Scusi, qual è la sorpresa? Chiede il conduttore Vianello. Ma no, lasci stare. Cioè, a questo punto sono intervenuti altri. Ma l'onorevole Pina Picerno, peraltro, non ha colto la frase, per cui si è informata. Ma cos'è che ha detto? Non ho capito. E altri hanno detto: guardi, meglio che lei non abbia capito. Insomma, questa frase, ho una sorpresa sotto le braghe per te. Il padano Polledri perde la testa in TV. Con poi Pina Picerno fuori trasmissione, dopo aver riascoltato l'intervista, ha detto: è veramente un fallo psichiatra, ma dovrebbe farsi curare. Una frase da trivio macista, un primitivo. Vabbè, succede anche questo in TV. Intanto io voglio ricordare che la pagina economica sul Sole 24 Ore, oggi l'apertura è dedicata alle borse. C'è anche il giorno di Mario Draghi, dovrebbe essere il giorno di Mario Draghi, doveva essere nominato ieri, è stato rinviato oggi per qualche resistenza della Francia, in ogni caso sì dell'Europarlamento, il giorno di Draghi alla BCE dovrebbe essere oggi. I leader europei hanno fatto slittare di 24 ore l'ok finale, tutto questo si legge a pagina 3. Ma ci sono poi dettagli su quella che è la riforma. Allora, la manovra pluriennale da 43-45 miliardi, su cui il Sole 24 Ore batte da qualche giorno per cercare di capire come sarà e che cosa conterrà questa manovra, che dovrebbe essere varata tra il 28 e il 30 giugno. È ormai pronta la griglia delle possibili misure da inserire in questa manovra ed ecco altre indiscrezioni, come si parlava ieri dell'età pensionistica, come si parlava ieri di altri dettagli. Oggi ci sono altri dettagli sul Sole 24 Ore a pagina 8. Il titolo dell'articolo è questo: statali stipendi ridotti sopra i 50.000 euro, giustizia a costi standard. Per quel che riguarda le pensioni, spunta il semiblocco dell'indicizzazione, risparmi anche con l'efficienza per tribunali e prefetture. Costi standard per tribunali, prefetture, motorizzazione civile, taglio del 5% degli stipendi pubblici superiori ai 50.000 euro. Blocco totale del turnover nel pubblico impiego, nuovo intervento sulla scuola per 500 milioni. Ecco la griglia delle possibili manovre da inserire nella manovra pluriennale. Così scrivono Davide Colombo e Marco Rogari. Attenzione, sono tutte possibilità allo studio, sono opzioni. Tra le opzioni dell'ultima ora spunta il blocco totale dell'indicizzazione per le pensioni oltre i 30.700 euro e quello parziale per i trattamenti tra i 18.000 e i 30.700 euro. Ipotizzate anche la privatizzazione della Croce Rossa, la chiusura dell'ICE, la chiusura dell'ENIT, la creazione di una holding per favorire la territorializzazione dell'ANAS, un graduale accorpamento province, prefetture e anche un intervento di razionalizzazione su Cinecittà. Insomma, queste alcune nuove anticipazioni date dal Sole 24 Ore oggi per quel che riguarda la manovra. Che cosa c'è ancora da segnalare? Beh, c'è da segnalare per quel che riguarda la cronaca, sicuramente c'è molto di rifiuti a Napoli. La situazione è davvero drammatica. Il sindaco De Magistris fa un'intervista a Repubblica, Giustino Fabrizio, a pagina 3. A rischio la salute della gente. C'è chi specula sulla monnezza, ma alla fine vincerò la battaglia. È rabbioso De Magistris, siamo pronti ad andare avanti anche da soli su quella data dei 5 giorni che ha dato. Dice, siamo onesti, quel piano di ripulire la città poteva essere fatto anche in 4 giorni, me ne presi uno in più per prudenza. Se poi un sindaco, quello di Caivano, si mette contro la legge e promuove la rivolta, non poteva farlo e il TAR gli ha dato infatti torto. Quello che temo di più è il rischio sanitario, dice ora De Magistris, che accusa il governo ci ha lasciati soli. Per questo è intervenuto anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano ieri in un intervento pubblicato dal Mattino di Napoli. Ha detto Napolitano: è assolutamente indispensabile e urgente un intervento per l'aggravarsi della acuta e allarmante emergenza rifiuti. Emergenza rifiuti dunque che rimane in primo piano a Napoli. Voglio chiudere con una segnalazione dal quotidiano nazionale. Io non lo so, forse voi li conoscete, voi siete fanatici del Grande Fratello, voi che siete seguaci del Grande Fratello, vi dico questi due nomi. Marco Mazzanti, protagonista della 9ª edizione. Pietro Lacorte già dall'altra parte fa un gesto come dire, lui che è siciliano, ma chi minchia è? Lea Veggetti, non so, questa la conosco, no, entrambe dell'edizione 9ª, quindi credo la precedente, il Grande Fratello. Insulti razzisti e morso a un poliziotto in manette, 2 ex del Grande Fratello. Erano a Milano alle 3 di notte, pare visibilmente un po' su di giri, magari avevano bevuto un po' qualcosa. Si presentano in un albergo per passare la notte alle 3:30. La signora non ha i documenti, al che il portiere dell'albergo dice: beh, guarda, se non hai i documenti non la posso fare. Ha iniziato extracomunitario di merda, insulti del genere. È arrivato una volante della polizia, morso a un agente della polizia, testate da parte di Marco Mazzanti, o tentativo di testate all'agente di polizia, sono stati arrestati. E tra l'altro il quotidiano nazionale dice: vabbè, ma insomma, in fondo la camera di sicurezza della questura è un po' come la casa del Grande Fratello, telecamere ovunque, cambia un po' lo scenario, hanno passato la notte lì. Va bene, ci fermiamo per il giornale radio, riprendiamo con l'intervista, ci sarà il procuratore capo di Napoli Giovan Domenico Lepore, da lui riprenderemo.